Buonasera a tutte e tutti, andiamo adesso in Corea del Sud per parlare dell'ultimo libro di Han Kang, L'ora di greco, edito da Delphi, ed è ospite con noi per parlarne Antonella Casdia, che ringrazio per essere qui con noi. Buonasera, io intanto ringrazio lei per questa occasione, questa opportunità di parlare di questo libro, che è stato molto molto interessante, appassionante e come sempre Han Kang non delude mai. Antonella Casdia è reporter di Korea Today, fa parte della redazione della rivista di studi orientalistici asiatica, ma soprattutto è docente di letteratura coreana all'Università La Sapienza di Roma. Ed è per questo che appunto abbiamo scelto di parlare con lei per fare un excursus anche sulla produzione di Han Kang. Han Kang appunto è un'attrice coreana che ha avuto tantissimo successo in Occidente e credo sia la scrittrice coreana più famosa in Italia. Il suo successo soprattutto in Occidente si è avuto con La Vegetariana, a cui poi sono seguiti in Italia La Convalescenza, Atti Umani e L'Ora di Greco, tutti editi per Adelphi. Come mai Han Kang piace tanto, soprattutto in Italia? Secondo me Han Kang piace molto perché in realtà sa decifrare molto l'animo umano. In realtà, leggendola nel corso degli anni, ho notato proprio che il suo principale scopo è quello di andare proprio a cercare quasi lo scopo per cui noi esseri umani siamo in un determinato modo. Quindi va a esplorare, a indagare l'animo umano, lo penetra. Ed è la sua scrittura penetrante, in realtà, quello che intacca di più il lettore, secondo la mia modesta opinione, perché infatti provandomi a leggere sia La Vegetariana che in realtà Atti Umani, io ho approfondito molto Atti Umani, sono andata proprio a... mi sono scontrata sicuramente con il fatto che sia molto di impatto, molto impattante come scrittura, perché è cruda, è... Dice la verità, ecco, senza girarci troppo intorno. E con L'ora di greco ho notato che forse leggermente si allontana dal suo normale scrivere in modo brusco, quasi violento, tra virgolette, perché l'ho trovata una lettura un po' più dolce, leggera, sebbene indaghi sempre l'animo umano, cioè ho notato proprio questa indagine, soprattutto per quel che riguarda, no, riscoprire i ricordi, quindi utilizzare la memoria come indagine dell'essere umano e sempre con quel velo sottile, in questo caso è un velo sottile, normalmente non lo è. Nell'ora di greco è un velo sottile di critica alla società sudcoreana, che come sappiamo, insomma, come qualunque società ormai, è intaccata, no, dal patriarcato, e in Corea del Sud ancora di più per la presenza ancora forte del confucianesimo, quindi dai dettami, no, secondo i quali la donna deve essere sempre, no, subordinata ad una presenza maschile. Che si tratti del padre, che si tratti del figlio maschio, che si tratti del marito, quindi sempre subordinata ad una presenza maschile nel corso della sua vita. Quindi Han Kang sicuramente si fa portatrice, in qualità di scrittrice femminile in Corea del Sud, di una lotta, ecco, per le donne, in nome delle donne, e forse in Occidente e in Italia piace proprio anche per questo. Però in particolar modo perché sa esplorare l'animo, quindi sa esplorare effettivamente anche il lettore stesso che si ritrova sbigottito. Io almeno ogni volta che mi ritrovo a leggere Han Kang è come se lei mi desse uno schiaffo in faccia perché mi ritrovo completamente senza parole, come se lei desse parola a me, quindi in questo caso al lettore che si ritrova di fronte ad una verità, ecco, una verità assoluta sull'esistenza quasi. Visto che la Corea è abbastanza famosa ultimamente, soprattutto però per quanto riguarda musica, serie, skincare e altro, appunto la Korean Wave ha un po' investito tutti, ma non ha coinvolto la letteratura. Comunque, gli scrittori, le scrittrici coreane non sono tantissimo conosciute. E volevo sapere perché la letteratura invece non sta cavalcando quest'onda. Beh, allora, diciamo che la letteratura è uno strumento un po' particolare perché diciamo che mentre la musica, appunto il K-pop in questo caso, è stato conosciuto anche per fortuna attraverso appunto all'inizio Psy, poi con il fenomeno dei BTS. Anche la skincare comunque si tratta di tutti gli ambiti che in qualche modo rigenerano, no? Distendono. Invece la letteratura ti porta di fronte ad un'indagine un particolare, quindi non è facile, ecco. E secondo me non è facile capirla, quella sudcoreana a tutto tondo, proprio perché spesso fra le righe dei libri, delle storie, non ci sono solo storie d'amore, quindi non sono romanzate le trame. C'è sempre questo accenno alla realtà così dura in Corea del Sud, proprio a livello sociale. Quindi, per quanto la musica possa sicuramente farsi portavoce in un qualche modo di qualcosa di più profondo, sicuramente non quanto lo fa la letteratura. Quindi, forse diciamo che bisogna, Ankang si sta facendo sicuramente portavoce di questa missione, di far conoscere sempre di più la letteratura sudcoreana, però diciamo che non essendo distensiva come può essere la musica in realtà, secondo me, proprio perché in realtà si cela sempre quel desiderio di dar voce al sentimento coreano, questo Han, che è una sorta di dolore sociale, comune, per qualcun altro, per qualunque altro popolo che si ritrova a che fare con la letteratura coreana, non sempre è facile captare e capire questo scopo ultimo della letteratura coreana. E questo compito si può trovare in Ankang come in qualsiasi altro autore sudcoreano in realtà. Quindi diciamo che è una letteratura particolare, che insomma è anche cruda. Diciamo che le persone con cui mi sono ritrovata a che vedere, a che fare, soprattutto quando abbiamo parlato di Han Kang e di altre autrici, soprattutto sudcoreane, che sono al di fuori del mondo, ecco, asiatico, degli studi asiatici, si è ritrovata a dirmi: beh, io in realtà diciamo che è stato difficile per me leggere Han Kang perché è veramente troppo cruda in alcuni tratti. Ecco, io credo che chi ha un background culturale, socioculturale, leggendola ritrova questa violenza, però la capisce, capisce i motivi, comprende i motivi che vi sono alla base. E questo diciamo che succede a chiunque si sia ritrovato a studiare la storia, la cultura coreana e poi si sia ritrovato a leggere non solo Han Kang, ma anche altri autori e altre autrici. Quindi diciamo che di base quello che ispira l'autore sudcoreano, l'autrice sudcoreana, è sempre, no, questo dar voce allo Han, che è questo sentimento coreano, che è indescrivibile, intraducibile quasi. E quindi chi non conosce questa base, diciamo, si ritrova un po' spaesato, penso. Perciò forse questo è il motivo ultimo per cui non ha avuto quell'impatto che ha avuto un K-pop o una skincare, ecco, degli altri, tutti quei parametri che rientrano nella K-wave, insomma. Qual è invece il rapporto tra Hong Kong e la Corea? Cioè, ho pensato a Elena Ferrante e alla Ferrante Fever, che è scoppiata appunto dopo che l'autrice è diventata famosa negli Stati Uniti e che l'ha resa famosissima anche in Italia. Volevo sapere appunto se anche per Hong Kong è stato lo stesso. Lei era già famosa in Corea oppure ha beneficiato di questo exploit in Occidente? Allora, sicuramente ha avuto ancora più risonanza in Corea del Sud dopo essere stata tradotta soprattutto, ecco, in inglese, perché la maggior parte dei libri in Italia in realtà arriva da una traduzione inglese. Per esempio, questo è tra virgolette, è un problema perché alcune volte se ci fosse stata la traduzione diretta dal coreano all'italiano, tante cose sarebbero state rese in modo diverso. Invece, venendo da una traduzione dall'inglese, molte cose si sono perse in realtà. Però il lavoro di collaborazione fra Ancambio e la traduttrice inglese è stato importantissimo perché ha portato non solo Ancambio a vincere un premio effettivamente, ma questo premio che è internazionale l'ha fatta riconoscere ancora di più in patria. E quindi diciamo che è stata una catena di montaggio in realtà. Quindi da successo globale. Poi sempre di più è accresciuto il successo nazionale, quindi anche al singolo, al compatriota, per così dire, è arrivata molto di più la sua scrittura, è risultata più, diciamo, comprensibile, più accessibile e diciamo che si è fatta notare sicuramente di più. Vi rimando alla puntata dell'anno scorso che abbiamo fatto con Benedetta Merlini su Buio in Sala e abbiamo parlato proprio di questo problema di traduzione, proprio tra l'altro italiano-coreano, quindi vi rimando a quella puntata. Invece volevo appunto soffermarmi un attimo sull'Ora di Greco, che tratta principalmente di malattia, anche della convivenza con la malattia, della percezione che hanno le persone di un corpo malato. A un certo punto, mentre leggevo, ho avuto il bisogno di leggere ad alta voce, perché questo libro, più degli altri di Ang Kang, l'ho vissuto come un libro estremamente musicale, anche perché la parola, il suono delle parole ha un ruolo importante comunque nell'economia di questo romanzo. Mi è piaciuto anche il fatto che in italiano ci sono tre alfabeti. Nel libro alcune parole sono state lasciate in coreano, poi c'è ovviamente l'italiano e il greco antico. Io mi sono sentita super fortunata perché so leggere tutti e tre gli alfabeti, quindi ecco, leggendo ad alta voce ho vissuto un'esperienza che andava oltre la lettura. Quindi appunto volevo sapere se per lei è stato lo stesso e come definirebbe lo stile appunto dell'Ora di Greco non solo a livello musicale, ma in generale. Dunque, sì, ho avuto la sua stessa fortuna perché anche io sono riuscita a leggere tutte e tre, e in quanto ho frequentato il liceo classico, quindi diciamo che è stato anche strano ritrovarmi a che fare con l'alfabeto greco antico che credevo di aver lasciato alle spalle. E esattamente anche a me, in realtà, è venuto il bisogno di leggere ad alta voce, soprattutto le parti in greco. Sarà che appunto è una reminiscenza, no, del passato, eh? Ho sentito il bisogno anche nel modo in cui è disposta la scrittura, quindi esattamente come se fosse una poesia, ma in realtà poi il libro intero, alla fine nel libro si ritrovano questi intermezzi, no? In cui interviene questo modo di scrivere, quindi questa serie di frasi in colonna, quindi come se effettivamente a un certo punto il romanzo lasciasse, cedesse il posto alla poesia. E quindi lì subentra il bisogno di entrare, no? Della voce, della parola. E quindi è come se il lettore, o almeno questa è stata la mia esperienza personale, dovesse parlare, si sentisse in dovere di parlare al posto della protagonista, che come appunto si evince non riesce a parlare, ha perso l'uso della parola in seguito ad un trauma psicologico. E quindi questa è la particolarità, probabilmente. Tante parole, tanta poesia, tante lingue. E quindi, no, l'intervento del coreano, del greco antico, dell'italiano in questo caso, perché si tratta di italiano. È stato bello, sì, poter non solo far un po' capolino fra tutti e tre i mondi, però è anche stato utile, esatto, spesso e volentieri leggere ad alta voce per questa risonanza. Per quanto riguarda lo stile, diciamo che a livello di scrittura, diciamo, è stato molto scorrevole, molto piacevole da leggere, anche facile da leggere, sebbene il contenuto sia stato difficile da assorbire, difficile da scoprire man mano. E però è stato bello, ecco, questo interscambio di tu, io, descrizione anche in terza persona, perché c'è questa tendenza in Ankang a mischiare le persone, e quindi è come se poi il romanzo diventasse sempre polifonico, quindi l'intervento di più voci. Questo lo ritroviamo nella Vegetariana, in Atti Umani e anche nell'Ora di Greco, quindi è proprio una tendenza letteraria di Ankang, come se volesse dare voce e spazio a tutti i personaggi che descrive, e quindi come se potesse subentrare sempre il punto di vista dei vari personaggi coinvolti, delle varie voci. E la cosa che mi ha non sorpreso, ma mi ha dato modo di scoprire sempre di più Ankang e capire che in realtà è un suo modo di inserire le donne nei suoi romanzi, e che a volte, questo lo ritroviamo nella Vegetariana soprattutto e nell'Ora di Greco, le sue protagoniste, soprattutto quelle più diciamo messe alle strette dalla società, giudicate dalla società, non parlano mai in prima persona. Infatti anche nell'Ora di Greco, quando ci sono le parti dedicate a lei, lei viene sempre descritta in terza persona, quindi come se ci fosse un terzo personaggio che non solo osserva lei e quindi il suo incedere nella quotidianità, ma anche no, il suo interagire con l'altro personaggio, ovviamente un'interazione silenziosa, perché sappiamo che per tutto il corso del romanzo, ecco, c'è questo silenzio fra lei e il mondo, fra lei e la società, come se appunto fosse ricca di parole. Infatti a un certo punto cerca anche di scrivere in greco una poesia, ma non ci riuscisse poi a tutti gli effetti a parlare, quindi a esprimere a voce, a gran voce, tutto quello che è il suo mondo interiore. E quindi è stato anche bello vedere questo intermezzo, no? Tra lei e il professore, che poi scopriamo avere problemi con la vista, quindi no? Due problematiche, sì, questo come ha detto lei è il romanzo della malattia, però è una malattia da un certo punto di vista sociale e personale, quindi sono coinvolti molto di più i sentimenti in questo romanzo, noto molto più coinvolgimento emotivo da parte di tutti e due, l'esplorazione non solo della propria psiche, ma soprattutto della propria emotività. Allora, l'Ora di Greco è incentrato appunto sull'insegnamento del greco antico in Corea. Se pensiamo all'Italia, il greco antico lo pratichiamo insomma al liceo classico o negli studi classici universitari. Questo invece mi ha, diciamo, da un certo punto di vista sconvolta, perché invece queste persone adulte volontariamente fanno un corso di greco antico. Ma ci sono davvero corsi così specializzati e specialistici in Corea o è un escamotage letterario? Allora, in realtà non lo so, però la cosa non mi sorprenderebbe, perché in realtà la cultura occidentale è, diciamo, molto ben vista in Corea del Sud e incuriosisce, ecco. Quindi non mi sorprenderebbe affatto se ci fossero corsi di questo tipo, contando che, per esempio, la lirica, soprattutto il canto lirico italiano, europeo, è molto praticato e studiato arduamente in Corea del Sud. In realtà tutto quello che è classico, tutto quello che è antico, relativo al mondo occidentale europeo, affascina la Corea del Sud. Ed è il greco antico, in realtà, per quanto lingua morta, e questa espressione non viene da me, ma si riscontra anche all'interno del libro, in realtà è il collegamento con la cultura per eccellenza, perché ovviamente sappiamo che la cultura greca è stata molto impattante in tutta Europa e diciamo è stata la culla della civiltà, la culla della cultura stessa. Quindi, siccome la Corea del Sud non disdegna questo fascino, no? Per il passato e soprattutto per questi elementi così forti in Europa, io credo che possano esserci tranquillamente dei corsi così specifici di lingua greca antica, dove sì, perché no, possiamo ritrovare queste persone, questi adulti che no, in un qualche modo è come se scappassero dalla quotidianità in cui sono incastonati per dedicarsi, no, a questo, che è come se fosse rigenerante. Ora, all'interno del romanzo troviamo in realtà dei personaggi ambigui, oltre ai due protagonisti, che è come se seguissero la lezione in modo svogliato, non proprio così coinvolto. E gli unici coinvolti davvero sembrano ovviamente il professore che insegna e la protagonista, perché no, sappiamo che la protagonista, diciamo, si è aggrappata al greco antico perché un'altra volta è riuscita a parlare nuovamente perché è entrata in contatto con un'altra lingua straniera, che era il francese. E quindi diciamo che il suo era un tentativo quasi disperato. E però alla fine si è visto come il greco antico sia diventato quasi, no, magico, un momento quasi di riconciliazione anche con se stessa, un momento in cui lei ha cercato quelle parole, tant'è vero che no, ha cercato di scrivere una poesia da sola, quindi questo dimostra che in realtà il suo contatto con il greco antico, se inizialmente è stato magari per una necessità, per un desiderio di ritrovare questa parola, è stato un percorso personale in cui è entrata anche in contatto di più con se stessa, oltre che ovviamente con il professore stesso, perché poi questo greco antico è stato un intermezzo quasi affinché i due mondi poi si potessero venire a contatto, ecco. Avevo già citato nell'intervista Buio in Sala, che è comunque incentrato sul teatro e che nomina tantissime opere teatrali, sempre della Grecia classica. E sono appunto magari riferimenti che noi nella nostra letteratura italiana o europea non mettiamo più. E invece è molto strano comunque ritrovarlo in una cultura così distante, che invece scava moltissimo nella cultura anche un po' più aulica, ecco. E invece cosa che noi non facciamo di ritorno, cioè, non ci È torna. vero, è vero. Effettivamente anche per me è stato strano ritrovarmi, interfacciarmi di nuovo con il greco antico attraverso Ancang, non lo avrei mai detto, francamente. E invece è proprio così, cioè è stato. Ma poi io non conoscevo l'ora di greco, l'ho letto, ecco, appena uscito, il trovarlo proprio scritto, che indica anche il lavoro che c'è dietro alla letteratura di Ancang, cioè lei ha, diciamo, si è rivolta a degli esperti, chiaramente, però comunque non si è tirata indietro dal ricorrere ad una lingua scritta, perché si sarebbe potuta limitare, ecco, a scrivere basta, tipo una traduzione in coreano, e noi l'avremmo ritrovata direttamente in italiano. Invece no, ha voluto incidere su carta, quindi nero su bianco, quel greco antico, che no, è così risonante, soprattutto in un romanzo dove regna il silenzio, in realtà. E ci sono altri libri dell'autrice che invece vorrebbe venissero tradotti in italiano? Perché so che non ha scritto solo di tre Sì. poemi che Allora, io ricordo. vorrei assolutamente The White Book, che è già stato tradotto in inglese. Però quindi si potrebbe fare sempre lo stesso ragionamento, anche se io mi auguro che si intervenga direttamente dalla lingua coreana, perché la lingua coreana è molto bella e nasconde in realtà tantissime parole, tantissimi significati, ecco. Quindi la traduzione diretta sarebbe meravigliosa da esplorare e anche da rendere. Comunque, The White Book, che è un libro in cui l'autrice stessa indaga, esplora in quel caso la sua psiche. Quindi, diciamo che questo lavoro l'ho già fatto con Atti Umani, quello di andare a esplorare la sua memoria e i suoi ricordi, perché in Atti Umani si parla del massacro di Gwangju, che è avvenuto appunto distrutto la Corea e l'immagine della Corea al mondo intero negli anni Ottanta, e appunto questo massacro da parte di un governo dittatoriale che all'epoca era in vigore, e ha appunto fatto sì che venissero zittiti tutti quei dissidenti, che allora erano visti come in qualità di dissidenti, in realtà non erano altro che semplici studenti, cittadini che cercavano di ribellarsi di utilizzare il loro diritto alla rivoluzione. E questo massacro è stato aberrante, ma è stato aberrante soprattutto lo scoprirlo da parte del mondo intero, quindi è come se in quel momento il mondo intero avesse aperto gli occhi su un evento straziante che in realtà Ankang è riuscita a rendere a parole in modo sublime. E diciamo che lei stessa poi è riuscita a trovare pace in un qualche modo con se stessa, riconciliarsi con se stessa attraverso la lettura. Quindi ha vissuto in un qualche modo questo dolore interiore e ha utilizzato il mezzo letterario per non solo no, prendere gli stralci di memoria, i suoi ricordi, fare pace con se stessa, con questi ricordi, dare poi voce a un popolo intero. Questa stessa cosa la fa in The White Book, dove in questo caso però cerca di fare pace con un altro lutto della sua vita, che è quello la perdita della sorella. Quindi intanto già dal titolo si comprende con l'uso del colore bianco che si parla di lutto, perché in Corea del Sud appunto il bianco è il colore rappresentativo del lutto. E di conseguenza mi farebbe piacere in realtà una trasposizione in lingua italiana perché sarebbe interessante vedere in italiano come viene reso, perché Ankang viene tradotta molto molto bene. A livello di coinvolgimento emotivo, emozionale, è scorrevolissima sempre da leggere, quindi la traduzione è sempre impeccabile. Di conseguenza vorrei proprio ritrovare questa traduzione impeccabile all'interno per la trasposizione di The White Book. E secondo te qual è invece il libro di Ankang da cui si dovrebbe partire per capire al meglio l'autrice? Dunque, per capire Ankang, direi Occhi Umani, ma in realtà Occhi Umani è una lettura troppo difficile. Anche se io partirei in realtà proprio da quello, perché è il romanzo in realtà più, a mio avviso, migliore che abbia scritto, perché non solo rievoca un fatto storico, però dà veramente, esplora tantissime voci diverse. Di qualcosa che in realtà, anche solo leggendo fatti su internet, ognuno può capirli, può saperli, può conoscerli. E quindi, siccome già di per sé la base storica è accessibile a tutti, a quel punto capire Ankang diventa più facile. Sebbene la lettura non sia facile affatto, assolutamente. Questo diciamo che è un trigger warning che bisogna inserire subito. Però è il libro con cui secondo me si può capire l'autrice e successivamente poi magari si può passare alla vegetariana. Sebbene diciamo che cronologicamente siano stati scritti invece in modo diverso, in modo opposto. Però a questo punto, anche con l'intervento dell'ora di greco, poi diciamo che la vegetariana diventa più accessibile perché se subito dopo subentra l'ora di greco, allora diciamo che la lettura, la sua letteratura stessa si fa più leggera, soft, perché ho letto anche che l'ora di greco è stato definito come una sorta di lieto fine della vegetariana. Oddio, lieto fine. Diciamo che anche se ci sono tantissimi punti in sospeso, perché questo libro è un punto in sospeso per me, rispetto alla vegetariana, diciamo che è meno cruento, partiamo da questo. E diciamo che è più incentrato sul romanticismo, la romanticizzazione stessa di un vissuto personale. Che in realtà, allora, all'interno forse quello che cambia in questo tipo di letteratura, in questo tipo di romanzo, è il fatto che convivano due dolori, non ce n'è più uno solo. Non che negli altri romanzi non vi siano anche altri dolori, perché sappiamo che nella vegetariana c'è sicuramente e indubbiamente il dolore straziante che prova a livello sociale la protagonista. Però c'è anche a un certo punto, soprattutto verso la fine, subentra, no? Lo spazio entro cui si affaccia la sorella e quindi si evidenzia che anche la sorella, che sembra anche l'unica a capire la protagonista, ecco, descrive, trova spazio per se stessa per parlare del suo stesso dolore. Però qui diciamo che il dolore è sullo stesso piano, viene messo sullo stesso piano e quindi allo stesso tempo sembra che i due protagonisti non siano mai da soli in realtà, sebbene convivano in uno stato di solitudine e di silenzio e di anche paura. Però anche se pur vivendo due problemi molto diversi, si possono capire e quindi c'è dell'empatia in più in questo romanzo. E quindi perciò forse viene descritto come una sorta di lieto fine della vegetariana, perché forse se nella vegetariana la protagonista non è riuscita a trovare, ecco, questa comunione con qualcuno che capisse il suo dolore, qui i due protagonisti sono equilibrati e si capiscono in un certo modo, perché vivono un dolore, sebbene diverso, li accomuna, li rende accessibili l'uno all'altro, ecco. Allora, siamo arrivati all'ultima domanda che è di rito della trasmissione, cioè ci consiglia un libro o che ha letto di recente o che vuole consigliare all'ascoltatrice e agli ascoltatori? Allora, una lettura che ho avuto modo di fare di recente e che ho dovuto rileggere anche spesso, riprendere più volte, è Le origini del male di Jung Jong, che appunto è sempre un'autrice sudcoreana. Forse molto più cruenta di Ang Kang, ma che in tutto il suo no, dar voce al genere thriller, perché in realtà questo è un genere, rientra nel genere thriller, riesce ad esplorare la psiche umana allo stesso modo di Ang Kang, ma differentemente da Ang Kang, si distacca un attimino e cerca di esplorare la mente di un personaggio che ha dei problemi, appunto, di un vero e proprio psicopatico, poi si rivela essere un serial killer. Quindi anche qui rientra sempre lo stesso, diciamo, intermezzo della vita privata dell'autrice, perché Jung Il-jung è stata infermiera e quindi è stata a stretto contatto con diversi pazienti e il mondo della psichiatria, della psicologia l'ha sempre affascinata, quindi ha sempre avuto un ruolo preponderante all'esplorazione, no, della mente e soprattutto cosa effettivamente spingesse i serial killer a diventare tali. E diciamo che con Le origini del male, per quanto ci sia molto sangue, molto ricorso al colore vivido, rosso, proprio della violenza, dell'omicidio, c'è un'indagine, cioè un percorso vero e proprio di come il personaggio principale sia arrivato a, diciamo, agire in un determinato modo. E infatti tutto il romanzo procede con questo, diciamo, in questo modo, con l'esplorazione, l'indagine di questi omicidi, di cui lui in realtà non è conscio, non è cosciente, quindi, mentre lui agisce. E quindi non dico che Jong Jong voglia giustificare questi serial killer, ma vuole semplicemente capire che cosa c'è il mondo dietro. E questo desiderio da parte degli autori e delle autrici è di capire cosa c'è dietro. È forse la cosa che più mi porta a leggere sempre di più questi romanzi, perché non me ne vogliano gli autori occidentali, ma come lo fanno quelli orientali? Sinceramente, nessuno. Cioè, forse proprio perché spinti da questo Han, questo sentimento coreano, che sono in grado in qualche modo di esplorare la psiche in modi e soprattutto da prospettive assurde. Cioè, è veramente il lavoro che c'è dietro ad un romanzo. Forte, si percepisce che c'è un'indagine, c'è uno studio e c'è anche una riconciliazione con il proprio mondo, la stessa psiche di chi scrive. Grazie per questa chiacchierata, per essere state qui con noi. Ricordo alle ascoltatrici e agli ascoltatori che abbiamo parlato dell'Ora di Greco di Ang Kang con Antonella Gasdia. Grazie. Io ringrazio voi perché è stato molto interessante parlarne e almeno speriamo che possa, ecco, anche la letteratura coreana in generale arrivare a sempre più lettori.